Maria, tu che mi guidi per mano. Maria, tu che ascolti e soffri insieme a me. Maria, tu che mi porti a Cristo nel silenzio della preghiera. Maria, tu che di Dio sei serva. Maria, in te Dio ha generato sé. Maria, tu che sei scudo impenetrabile contro il maligno. Resta accanto a me, non lasciarmi mai. Fa che io non perda mai la vita, le mie mani siano le sue, il tuo cuore sia il mio, Maria totus tu. Maria, compagna di ogni cammino. Maria, che sei luce nell'oscurità. Maria, aiutaci a testimoniare la sua parola. Maria, cuore immacolato. Maria, sotto la croce sei divenuta nostra madre. Auspiliatrice dei cristiani. Resta accanto a me, non lasciarti mai. Fa che io non perda mai la mia. Le mie mani siano le sue, il tuo cuore sia il mio, Maria totus tu. Maria totus tu. Maria totus tu.